Sapete che ci sono vari comuni che chiedono di passare da una regione all'altra, non è il primo caso. Ma in questo caso c'è un'intera provincia, la provincia di Belluno, che ieri ha deliberato col consiglio provinciale. La provincia di Belluno ha deciso che vuole andare via dal Veneto e vuole andare tutta in toto in Trentino Alto Adige. Questo per avere i maggiori favori delle regioni autonome, maggiori risorse finanziarie, maggiore autonomia. Il voto della provincia per lasciare il Veneto, e tra l'altro si incrocia con una storia che il Sole 24 Ore racconta in prima pagina, con Vincenzo Del Giudice, i tormenti delle autonomie, la storia di Salento Libero, la storia dell'ideologo Paolo Pagliaro, Movimento Salento Regione, vuole creare una regione, Salento Autonomo. E la trovate in prima pagina, poi continua a pagina 2, la voglia di secessione contagia anche il sud. Insomma, si dicevano che queste province bisognava abolirle e invece per quel che riguarda il Veneto vogliono passare in Trentino Alto Adige, Belluno. E poi invece al sud che dobbiamo fare? Si dice che ci sono troppi livelli e invece si vuole creare una nuova regione, il Salento Autonomo. Evviva! Voi votate sul legittimo impedimento il nostro sondaggio, secondo voi è un principio giusto, questo vi chiediamo, ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20 minuti. Per la nostra intervista di oggi voglio salutare l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Senta, ci sono tanti temi di cui parlare, però io vorrei partire dalla Fiat. Tra l'altro lei ricordava oggi anche in qualche intervista, ha fatto tante campagne, ha volantinato davanti a Mirafiori per anni. E le chiedo, dovesse votare, cosa voterebbe questo referendum? Beh, non è facile per chi non è lavoratore esprimere, forse non è neanche giusto. Comunque mi pare che nella situazione data privilegerei il lavoro, gli investimenti, quindi sarebbe un sì molto sofferto. Privilegerei queste scelte. Perché dice nella situazione data? Cioè, secondo lei mi pare di capire che lo presenta come una sorta di ricatto? Beh, insomma, mi pare che questa non sia una parola impropria, l'uso di questa parola non è impropria, perché i lavoratori sono stati posti di fronte a un'alternativa abbastanza netta, o si accettano le condizioni date oppure si investe da un'altra parte. Sono rapporti di forza nettamente sfavorevoli per i lavoratori, sono di fronte a una scelta molto dolorosa che impegna molto la politica. Ma lei dice, non è che per molti Marchionne vuole così innovare le relazioni industriali, dare magari una scossa, magari ci vuole appunto una scossa forte per cercare di smuovere qualcosa che è un po' incrostato da decenni? Per innovare si innova attraverso la cooperazione, non attraverso gli out-out. Quindi certamente oggi la difesa dei diritti, la condizione di lavoro, la creazione, la valorizzazione del lavoro avviene in un contesto molto diverso rispetto al passato, ci mancherebbe. È evidente che bisogna misurarsi con il fatto che il mondo è globale, ma proprio perché c'è bisogno di innovare, c'è bisogno di forte cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori, e mi sembra che questo sia invece ciò che la carta che non ha giocato Marchionne. E soprattutto grave in questa vicenda è l'atteggiamento del governo, che è stato totalmente assente nelle indicazioni di una politica di sviluppo, di una politica industriale, con un ministro del lavoro che ha fomentato la divisione tra lavoratori. Questa è una cosa gravissima. Io però volevo allargare, lei mi ha spunto proprio il tema, alla politica. Cioè non è che Marchionne copre un vuoto che la politica, lei dice il governo, io allargo, dico la politica in generale nel rapporto anche con i lavoratori ha lasciato così vacante? Sono totalmente d'accordo. C'è un vuoto drammatico del governo, una colpevole assenza, e soprattutto voglio sottolineare la peculiarità di questo ministro del lavoro che, accecato dal furore ideologico, divide il sindacato. Però io dico la politica in generale, quindi sì, anche il Partito Democratico. Dicendo, sono d'accordo, voglio dire che questa per me è la cosa più grave, perché poi il governo ha la sua responsabilità. Dopodiché non c'è dubbio che questa vicenda della Fiat, io credo sia davvero un'alternativa drammatica a cui sono messa di fronte i lavoratori, ci pone la necessità al Partito Democratico di fare una scelta molto radicale, di ricostruire un legame, intanto un legame umano con questi lavoratori, di vicinanza, di conoscenza, di radicamento nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di ricostruire una dignità del lavoro all'interno di un mondo che è tutto cambiato, e quindi non c'è dubbio che dignità del lavoro significa anche farsi carico della produttività del lavoro, di quali scelte di politica industriale. Infatti penso che sia arrivato il momento di cambiare le nostre relazioni tra lavoratori e impresa, proprio nel senso di una maggiore assunzione di responsabilità dei lavoratori. Io guardo per esempio con interesse, sono interessata a capire come hanno fatto in altri paesi europei, come per esempio la Germania, sì, dove all'insegna della maggior cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori. E poi c'è un problema che riguarda la politica, che è quello della sicuramente di affrontare il nodo della rappresentanza sindacale, ma anche di un maggior peso politico del mondo del lavoro. Quando gli operai, i lavoratori contano, sì, sono chiamati ad essere protagonisti, e questo è un compito della politica. Lei, onorevole Turco, ha dato il nome anche a una legge, la Turco-Napolitano sull'immigrazione, è una legge, sì, oggi c'è la Bossi-Fini, e sul tema immigrati non trova molto pragmatica anche la posizione della Caritas di Venezia, che dice sono già in troppi, c'è una crisi, forse bisogna frenare i nuovi flussi? Non mi pare che sia, no, sì, io penso che bisogna essere molto pragmatici rispetto ad alcuni temi, non essere animati né dalle ideologie, e a volte neanche solo basta nei buoni sentimenti, però non mi tornano i conti, ecco, adesso probabilmente la Caritas di Venezia riflette un dato di Venezia, ma non mi tornano i conti, nel senso che il governo, che ha chiuso i flussi per 2 anni sulla base di una impostazione ideologica, no agli immigrati, questo governo che aveva detto no agli immigrati perché c'è la crisi economica e quindi chiudiamo l'ingresso regolare, è stato costretto a fare un flusso, ad aprire i flussi regolari proprio recentemente, quindi non è vero che c'è una competizione, perché intanto sono aumentati anche i lavoratori immigrati che perdono lavoro, e che grazie alla norma della Bossi-Fini in vigore, norma capestro, la norma sbagliatissima, che è quella che se tu non trovi lavoro entro 6 mesi vieni espulso, e quindi vengono espulse persone che sono magari in Italia 10 anni. Questo alla faccia della mobilità e della flessibilità del lavoro. E quindi bisogna prima sistemare quelli, appunto, prima di far entrare altri. Sì, no, ho capito che bisogna sistemare quelli. Poi però ci sono, cioè, i dati, non io, che sono considerata una buonista, i dati del mercato del lavoro ti dicono che noi in Italia abbiamo un mercato del lavoro molto segmentato, in cui ci sono determinati pezzi di lavoro che, nonostante la crisi economica, se non ci fossero i lavoratori, quei posti resterebbero vacanti, se non ci fossero i lavoratori immigrati. Sì, questa è la realtà che ha confermato, che confermano tutti, l'Union Camere, la CIMestre, l'Istat. Sì, la classica cosa, fanno i lavori che noi italiani non... Sì, anche durante la crisi economica, capisci? Quindi questo aspetto qui, a noi, sì, italiani, diciamocelo, guardiamoci in faccia, non è che possiamo dire non li vogliamo e poi però non siamo disponibili a fare dei lavori. Senta, io nel salutarla e ringraziarla, lei, visto che dice sono considerato una buonista, farebbe come ha fatto il sindaco di Bari Emiliano del Partito Democratico, come lei, che ha preso 3 netturbini, li ha fatti fotografare e ha detto, li ha messi su Facebook dicendo guardate non lavorano i fannulloni, ha invitato i cittadini a fotografare, mandare le foto dei fannulloni, lei magari quando era al ministero l'avrebbe fatto? Ma io penso che penso che che ci sia bisogno in questo paese anche un po' di una scossa civica, e che quindi ci siano, ciascuno faccia, bisogna combattere i furbi, quelli che fanno ma furbi. Così mandiamo una bella foto di chi magari parlotta invece che lavorare. Vabbè, adesso mi sembra degli eccessi, con gli eccessi non si costruisce mai, con gli eccessi non si costruisce il senso civico, quindi Questa forse no, la foto su Facebook no. Vabbè. Ah no, adesso mi sembrano cose più propagandistiche che non tese a costruire davvero qualcosa di positivo. C'è bisogno di un po' di pacatezza, di costruire un po' di serietà, è così fuori moda questa parola, serietà, pacatezza, sì. Un pochino sì. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata. Bene, grazie. L'onorevole Livia Turco del Partito Democratico, e noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo del legittimo impedimento, domani la Corte Costituzionale decide, ma noi vi chiediamo al nostro sondaggio, secondo voi è un principio che ritenete giusto comunque, legittimo impedimento, cioè chi governa deve avere sospesi per il tempo in cui governa i processi, perché o governa oppure si deve presentare in tribunale. Questo è il succo del legittimo impedimento. Che ne pensate? Per ora prevalgono i no col 64%, ma votate su radio24.it oppure eccoci qua 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci qua, è prevista per domani la decisione della Corte Costituzionale che si deve pronunciare sulla costituzionalità del legittimo impedimento, vale a dire quella legge che prevede per 18 mesi per Premier e i ministri, insomma i membri del governo, una sospensione dei processi. Vi chiediamo, in attesa di capire cosa giudicherà, cosa dirà la Consulta, secondo voi, questo è il tema del nostro sondaggio, il legittimo impedimento, comunque come principio, è un principio giusto, è un principio che condividete, è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Come detto, per ora prevalgono i no col 63%, votate su radio24.it oppure chiamateci 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. Ne parliamo intanto con un collega che si occupa di giudiziario da tanti anni a Milano, ora è alla stampa, Paolo Colonnello. Buongiorno Paolo e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Così come voglio salutare due esponenti politici, l'onorevole Stracquadagno del Popolo della Libertà, Giorgio Stracquadagno, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Così come il senatore Felice Belisario, buongiorno, dell'Italia dei Valori, capogruppo, presidente del gruppo al Senato, buongiorno Belisario. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Senta, intanto le chiedo, ma Belisario, il principio secondo lei, al di là di quello che deciderà la Corte, non è giusto, cioè uno governa o se ha dei processi va ai processi, allora fermiamoci un attimo, fermiamo i processi senza far andare la prescrizione eccetera e poi verrà processato dopo, è un principio che lei trova scandaloso? Ma è inaccettabile in uno Stato di diritto, non è scandaloso, cioè in uno Stato di diritto tutti quanti, come in tutti i paesi del mondo, sono uguali davanti alla legge e lo sono anche coloro i quali rivestono particolari cariche pubbliche. Io la dico tutta nei confronti del Presidente degli Stati Uniti d'America: per i reati che commette da privato cittadino non c'è nessuna rete, non c'è nessuno scudo, non si procrastina nessun giudizio, ognuno risponde davanti al suo giudice naturale. Questo ricordiamo, lo scudo non vuol dire che il processo viene diciamo stoppato, cioè viene stoppato, capito, ma non è che viene cancellato, è una sospensione. Lo vogliamo chiamare uno scudo a tempo, una sospensione, sì, a tempo, una sospensione, cioè, temporanea. E c'è qualcuno, 1, 2, 3, 10 o 20, più uguali degli altri davanti alla legge. Questo a noi ci pare un principio proprio che offende lo Stato di diritto, molto semplice. Onorevole Stracquadagno, perché a queste obiezioni si tira in ballo sempre l'articolo 3 della Costituzione, insomma tutti siamo uguali di fronte alla legge, alcuni sembrano più uguali degli altri, anche se appunto non è che si cancellano i processi, ma perché alcuni in Italia devono avere i processi sospesi? Perché messa come l'ha messa lei e come l'ha messa il senatore Belisario, anch'io sarei contrario che questo sia realizzato con una legge di tipo ordinario, perché così questo richiederebbe una prerogativa di carattere costituzionale, come esiste in moltissimi paesi. Il punto è che il legittimo impedimento è un istituto processuale che già esisteva prima di questa legge e che consente a chi ha un motivo legittimo per non andare in udienza processuale di non andarci, con il congelamento dei tempi processuali e al tempo stesso la possibilità, come dire, di differire quell'udienza o quel gruppo di udienze processuali. Sì, questo succede anche per me e lei, se siamo malati per esempio. Bravo. Diciamo, vabbè, bravissimo, se siamo malati, malati o secondo quello che ha scritto la Corte Costituzionale, se esercitiamo una funzione pubblica che ha un carattere prevalente rispetto a quella all'esigenza dello svolgimento di quel processo. Oh, è questo. Allora, quello la funzione dice. Prevalente riguarda anche i parlamentari. Io da parlamentare, se sono protagonista di un processo, per in qualunque veste ne sia protagonista, anche quella di testimone per esempio, se quel giorno c'è una votazione alla Camera e io quindi faccio parte della Camera e ho il diritto di votare e viene fissata un'udienza processuale, io mando la certificazione che quel giorno ci sarà una votazione e all'udienza processuale viene spostata. Sì, sì. Sì, verrebbe da dire, verrebbe da dire, mi scusi, mi verrebbe che da dire, lo determina per un periodo di qualche mese. Perfetto, esatto, cioè perché sennò uno dice se c'era già perché fare la legge, uno verrebbe da dire se c'era già questo legittimo impedimento che vale per tutti, perché la necessità di fare una legge che stabilisca per 18 mesi. Io però, Paolo Colonnello ci deve aiutare a capire una cosa che ieri abbiamo letto sui giornali, che è abbastanza accertata ormai, cioè io la pongo così: qualunque sia il giudizio della Corte Costituzionale, potrebbe essere che stiamo parlando del nulla. Forse esagero, Colonnello, però forse hai già capito dove voglio arrivare. Cioè, ieri ho letto sui giornali che se anche dovessero ripartire i processi, perché per esempio la Corte Costituzionale dicesse è tutto incostituzionale, quindi ripartono i processi, in realtà sono cambiati i collegi dei processi nei quali è imputato il Presidente del Consiglio, e dunque, perché alcuni giudici hanno chiesto i trasferimenti, eccetera, e si ripartirebbe da zero, e dunque questo porterebbe a una prescrizione. È così? Sì, è proprio così. In particolare il processo Mediaset aveva un presidente, cioè per i fondi neri Mediaset aveva un presidente già applicato, che è l'attuale presidente del Tribunale di La Spezia, sì, che aveva iniziato a seguire il processo, poi Davos, che era stato poi è stato promosso come presidente di La Spezia, è stato applicato per un certo periodo, ma le applicazioni sono a tempo, è finita e quindi il processo deve ricominciare da capo. In questi casi gli atti si possono ritenere validi in parte oppure totalmente, oppure le difese possono anche chiedere che venga rinnovato tutto il dibattimento perché ci sono giudici nuovi, eccetera, eccetera, e direi che questo sarebbe il caso del processo per i fondi neri Mediaset, visto come sono andati finora. Certo, poi c'è anche la vicenda, credo, del processo insomma di David Mills, in questo caso Francesca Vitale, che è la presidente, ha ottenuto una promozione chiesta, esatto, in corte d'appello. E quindi anche lì il processo che già era alle primissime battute, quello a Berlusconi, no? Forse come ricorderanno gli ascoltatori, è un processo travagliato perché venne separato la posizione di Mills da quella di Berlusconi, la posizione di Mills è stata definita persino in Cassazione, con un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, ancorché una dichiarazione di prescrizione dei fatti, ma una condanna, un risarcimento allo Stato di 250.000 euro. Mentre invece quello di Berlusconi è sostanzialmente ancora le prime battute, ripreso subito dopo la chiusura della prima parte, diciamo, di quella relativa a Mills, e si era ancora alla fase, tra virgolette, perché tecnicamente non sarebbe giusto definirla così, preliminare, cioè nella quale si stava decidendo se recepire gli atti del precedente processo oppure no. Però bisognerebbe fare un passo indietro, perché è cambiato, cambia un giudice, diciamo, comunque. Sì, bisognerebbe fare un passo indietro, dirò di più, questo processo teoricamente sarebbe già totalmente prescritto. Il paradosso è che viene tenuto in vita proprio per queste leggi ad personam sulla prescrizione che sono state fatte, che hanno procrastinato la prescrizione del processo. Sì. No, cioè, verrebbe da dire quindi che anche dovendo la Corte Costituzionale dicendo è tutto incostituzionale, quindi si procede con i processi fanno passi indietro, è un po' un paradosso, voglio dire, capisco che poi la giustizia funziona così, insomma. La giustizia, per essere chiaro, la giustizia non funziona così normalmente, perché se tu sei un privato cittadino queste cose non succedono. Cioè, è difficile che un processo ti arrivi in prescrizione, a meno che non si tratti di una cosa, che ne so, di una sciocchezza, però normalmente non succede. Succede nei casi di Berlusconi, perché le battaglie che sono state fatte per i processi che l'hanno riguardato sono sempre state fatte un po' fuori dal processo, prima che all'interno del processo, e questa è la vera anomalia. Poi, al di là di tutto, questo è un tema interessante. Vediamo su questo Straquadagno, allora, e poi Belisario. Straquadagno, che è un bravo cronista e ha omesso una cosa decisiva, sì, in questa ricostruzione sul processo Mills in particolare, che quel processo sarebbe già stato chiuso da tempo per prescrizione e rimane in piedi per la semplice ragione che, con una interpretazione del tutto arbitraria, la procura, e sembrava questo essere accolto dai magistrati del dibattimento, aveva fissato la data di commissione del reato, non nel momento in cui il presunto reato sarebbe stato commesso, questa diatriba, ma è stata anticipata, ma in un momento ampiamente successivo sì, sulla base di un principio assolutamente, come dire, gommoso, elastico, che serviva soltanto a mantenere in piedi l'imputazione nei confronti del presunto. Però le chiedo, sta guardando, il tema della aggressione politica politico-giudiziaria di Berlusconi è il tema portante di questi Oh, ecco perché risponda a questo, perché colonnello, vogliamo dirla tutta, colonnello l'anomalia ha fatto, non risiede nel fatto che come dice colonnello, per gli altri la giustizia segue un corso e per Berlusconi segue uno speciale a suo vantaggio, al contrario, cioè l'anomalia è la persecuzione dei magistrati, è stato fatto oggetto di interesse giudiziario nel momento in cui ha scelto di scendere nell'agone politico. È molto chiara la sua posizione, altri, è molto come molti altri è stato, c'è stato su di lui un tentativo di estrometterlo dalla vita pubblica. È molto chiara la sua posizione, Straquadagno. Mi faccia sentire su questo il senatore Belisario dell'Italia dei Valori. Belisario ha sentito colonnello e la replica di Straquadagno, cioè per Straquadagno l'anomalia non è, come dice colonnello, che i processi non vanno in prescrizione per le persone normali, l'anomalia sono i giudici e la persecuzione nei confronti di Berlusconi. Certo. L'amabilità dell'onorevole Straquadagno non mi impedisce di dire che questa è una barzelletta, è una barzelletta che poi succede solo a Berlusconi, non è successo a nessun altro, cioè questo voler per forza fare la parte del perseguitato veramente mi pare che sia fuori da qualsiasi canovaccio. La verità è che egli si considera non un perseguitato ma un intoccabile, e quindi come un intoccabile egli si è fatto le varie leggi, per questo si prescrivono i suoi giudizi o comunque non si fanno. Diversamente Berlusconi sarebbe già stato impacchettato e condannato dalla Cassazione, come è avvenuto da Mills. Non diciamo sciocchezze. Beh, insomma, ormai sarebbe stato processato, adesso diamo già il giudizio. No, sarebbe, ma la posizione del presidente Berlusconi è stata stralciata dal processo Mills, altrimenti ovviamente se c'è un corrotto presumo che il processo per il corruttore non si faccia su di un binario parallelo ma si faccia contemporaneamente e contestualmente. I vari Lodo Alfano prima e poi il legittimo impedimento dopo e qualche altra diavoleria ancora dopo, purtroppo dai Lodi Schifani ed altri la Corte Costituzionale interviene, vede bene. Diciamoci la verità, è vero che la parte giurisdizionale non deve prendere il sopravvento sulla parte politica ed è giusto che la parte politica debba amministrare, ma non può essere che la parte politica si affranchi da un altro ordine costituito dello Stato, quale quello giudiziario, per cui attenti, io sono convinto che se una sentenza, ovviamente rispettando quello che dirà la Corte Costituzionale, se la sentenza è una sentenza che si scrive in punto di diritto, non c'è gioco, non ci può essere gioco. Tutti i costituzionalisti maggiori, basta leggere i quotidiani di questi giorni, la dicono in modo chiaro. Se ma poi insomma, vogliamo devo dire, perché devo dare le informazioni sul traffico, poi riprendiamo da qui. I giornali dicono sempre di questi 15 giudici che sono anche un po' spaccati, 5 o 6 sarebbero per dare la costituzionalità, 6 o 7 per, o 7 o 8 per non darla, altri incerti. Staremo a vedere questo domani, non possiamo anticipare ovviamente il giudizio della Corte, ma parlare delle considerazioni anche politiche che riguardano questa decisione dopo il traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il 64% di voi però dice no, non è un principio giusto quello del legittimo impedimento, anzi 65%. Se aggiorniamo le cifre su radio24.it sentiamo Roberto da Modena che ci ha chiamato all'800240024. Roberto, che dice lei? Buongiorno, intanto grazie per avermi chiamato. Grazie per aver chiamato lei. Grazie, io premetto, sono una persona di destra, sono un piccolo imprenditore, però non trovo sia corretto l'illegittimo impedimento per un semplice motivo, che io quando devo partecipare ad una gara d'appalto devo fare un'autodichiarazione dove dichiaro di non avere dei processi o o essere indagato per qualsiasi motivo, perché se lo fossi non potrei partecipare neanche alla gara d'appalto. Quindi io non capisco perché un Presidente del Consiglio o un parlamentare, se indagato, non debba fare quello che è giusto che lui faccia. Poi se ma in che senso? Cioè, perché quello che le ha spiegato e che è la posizione di chi sostiene il legittimo impedimento, perché c'è una funzione più importante, superiore, pubblica da adempiere, che sospende per un periodo e congela tutto, poi quando non ci sarà più questa funzione ricoperta uno affronta i processi che deve affrontare. Questo è il principio. Lei non sta bene? No, la persona mi diventa poco credibile. Ah, va bene, se lui persona continuasse a espletare le sue funzioni, in più fare i suoi processi, sarebbe, secondo me, sarebbe molto meglio, perché va bene. Molto migliore al popolo. Grazie Roberto. Federico da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi riallaccio ampiamente al discorso dell'ascoltatore precedente. È chiaro che insomma, ma noi non possiamo pretendere sempre di vivere diciamo con l'impunità, perché bisogna sempre cercare l'escamotage per non farsi processare. Il Presidente del Consiglio, se non ha nulla da nascondere, se non ha nulla da temere, vada davanti ai giudici, si faccia processare, ne esca vincente, visto che è così convinto che possa uscirne vincente, perché lui dice che non ha fatto niente. Allora, anziché dire mi perseguitano e poi cercare l'escamotage giudiziario per non andare a farsi processare, vada davanti ai giudici con la sua bella faccia consueta e si faccia processare, se è così convinto. Grazie Federico. Onorevole Stracquadagno, che ne pensa? Sono posizioni preconcette. Per troppi anni si è fatto demagogia contro la politica e questo è il risultato che ne raccogliamo, per il quale non si tiene conto di un aspetto molto semplice. Tutte le norme che nei paesi democratici esistono a tutela delle funzioni politiche nei confronti dell'azione penale sono, ed esistono anche nei paesi dove, per esempio, gli Stati Uniti, dove se si vuole procedere con un'azione penale nei confronti del capo dello Stato, del Presidente degli Stati Uniti, ci vuole un procuratore speciale, non è che lo fa il primo procuratore di provincia dell'ultima contea. Mettono al riparo la funzione pubblica, che è espressione del voto, dalla pretesa giudiziaria di processi che possono essere di tipo strumentale, però che hanno un carattere politico. Quel procuratore speciale in America riesce a processarlo, però il Presidente come... Ho capito, ma chi lo nomina? Lei lo sa chi lo nomina? Il governo lo nomina. Allora va bene, facciamola che la nomina del procuratore generale del governo, dei procuratori speciali del governo, e siamo tutti d'accordo. Il problema dei meccanismi processuali e giudiziari è che si garantisce l'equilibrio tra le istituzioni e non la prevalenza dell'una, quella giudiziaria, su tutte le altre, come si vorrebbe imporre solo in Italia. Io vorrei chiedere Paolo... Questa è l'anomalia vera di cui noi soffriamo, che viene da una rottura dell'assetto costituzionale del 48. E sa dove è stata la rottura? Nel togliere quell'istituto di bilanciamento che si chiamava immunità parlamentare. Sapevo che arrivava qui. Paolo Colonnello, vorrei chiedere perché è così importante allora questa discussione che stiamo facendo, che sta il dibattito sui giornali, se poi alla fin fine i procedimenti probabilmente andranno in prescrizione nell'uno o nell'altro modo. E perché da 15 anni, se non da di più, l'Italia si interroga su questo tema? Tutto sommato da molto più tempo. Infatti. Ma è molto importante questa questione, proprio perché investe un aspetto costituzionale. Cioè la Costituzione è la legge fondamentale del paese, la legge madre da cui derivano tutte le altre leggi, e ogni legge che viene promulgata dalle Camere, dal Parlamento, deve confrontarsi con la Costituzione. Cioè bisogna vedere se è in linea oppure no con i dettami di questa legge fondamentale. La legge fondamentale dello Stato, ovvero la Costituzione, disciplina in un certo senso gli equilibri tra i poteri presenti in Italia, che sono quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. E sono poteri che spesso finiscono con l'essere in lotta tra di loro, cosa che invece non dovrebbe esistere, perché sono comunque espressione sempre dello stesso Stato, di una democrazia. Certo. Però anche in questo caso succede così, cioè anche per, cioè, che cosa va a discutere veramente la consulta? Cioè, e che cosa dice questa legge sul legittimo impedimento? Non dice una cosa, ecco, straordinaria, cioè, non bisogna essere molto onesti, cioè, noi per esempio conosciamo la pubblicistica veicolata dai media, ma sappiamo molto poco del contenuto dei lavori parlamentari di preparazione che definirono il senso di questa legge, che ha due sensi forse. Uno è che sostanzialmente un senso definitorio di che cosa sia la nozione di legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio. Vediamo di capirci, non è che prima di questa legge non esistesse legittimo impedimento. No, infatti, come, cioè, come diceva, è sempre esistito. Infatti, secondo me ci sono stati anche degli errori negli articoli recenti sui giornali, cioè, perché poi si fa in fretta, molti dicono perde il pubblico ministero Fabio De Pasquale che aveva proposto. Sì, come se fosse una partita, no? No, 1-0. Il pubblico ministero Fabio De Pasquale in realtà non ha mai fatto queste eccezioni di costituzionalità, che sono state sempre iniziative dei giudici giudicanti. Lui, per esempio, quando fece l'intervento a due giorni dall'entrata in vigore di questa legge, che è del 7 aprile scorso, durante l'udienza del processo per i fondi neri in Mediaset, disse sostanzialmente è stato fatto tanto rumore per nulla, perché questa legge si amplia sostanzialmente le prerogative, i momenti nei quali il Presidente del Consiglio può rivendicare il legittimo impedimento, ma per esempio non stabilisce un principio di impedimento assoluto, che è quello che poi viene applicato anche al normale cittadino. Cioè, per esempio, io domani ho un'udienza, ho un processo, mi alzo al mattino. Sì, sono malato. Sono molto malato, molto malato, non posso proprio andare. Questo diventa un legittimo impedimento. Un impedimento assoluto. Mm. Ah, ok. Il legittimo impedimento è altro. Il legittimo impedimento di cui parlava l'onorevole Stracquadagno prima, per esempio, è così ed è stato definito in questo modo per una cosiddetta legge Previti. Ma anche lì la questione è controversa, perché tutti i lavori di un parlamentare possono essere considerati legittimo impedimento, ma allora la questione è: il giudice che per principio costituzionale ha il dovere di stabilire che cosa sia, che cosa non sia legittimo impedimento, non viene privato di questo tipo di prerogative? Perché, allora, perché poi alla fine ci vuole c'è il controllore e il controllato. No, ma è chiaro. Ma poi che molte volte il politico vuole essere controllore e controllato al tempo stesso. Sia la vicenda così controversa, lo si capisce anche, insomma, dalla decisione che domani ci sarà della Corte Costituzionale. E non so se Paola De Firenze è lapidaria, lei a favore o contro? Sono a favore, perché credo che in alcuni casi debba prevalere il ruolo che una persona ricopre all'interno delle istituzioni, e secondariamente perché credo che una base di accanimento contro il Premier ci sia. Ah, più lapidaria di così. La ringrazio. Con lei concludo. Grazie all'onorevole Stracquadagno del Popolo della Libertà e il senatore Bellisario dell'Italia dei Valori e Paolo Colonnello della Stampa, con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. Diamo la linea a Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina alle 7.20.